Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Le formiche non sono fatte per servire le cavallette. Ho visto queste formiche fare grandi cose. Anno dopo anno riescono in qualche modo a raccogliere cibo per se stesse e per voi. Avete appena sentito una clip tratta da Bug's Life, Mega Mini Mondo, un film d'animazione prodotto nel 1998 dalla Pixar. Protagonista di Bug's Life sono le formiche. E perché ho tirato in ballo le formiche? Perché noi abbiamo una struttura del sistema economico che è fatta di PMI e soprattutto di piccole imprese. Queste piccole imprese devono poi affrontare la sfida dell'Industry 4.0, cioè di essere in un mondo totalmente interconnesso, dove i distretti diventano globali e non locali. Si potrebbe pensare che scompaiano di fronte a questa sfida, che questa sfida renda per loro più difficile rimanere in vita e sopravvivere. Invece non è così. La realtà è diversa. Nel mondo dell'Industry 4.0 è possibile entrare anche da piccole imprese, è possibile entrare con investimenti ridotti, è possibile entrare per gradi e anzi, alle piccole imprese che sono maggiormente innovative, l'Industry 4.0, l'interconnessione mondiale, apre opportunità di sviluppo, di crescere, di diventare più forti. Sembrano un po' le formiche di Bug's Life che sfidano le cavallette. Oggi ne parliamo con Laura Rocchitelli, buongiorno. Buongiorno. Che ha un'azienda che si chiama Rold, una bella azienda di 40 milioni di euro che fa componentistica per lavatrici, elettrodomestici e dintorni, poi ce lo racconterà. Ma nell'ambito di questo che cosa ha fatto la Rold? Ha sviluppato Smart Fab, che è una soluzione fatta in cooperazione con Samsung, e quindi qui veramente parliamo della formica col gigante, per dare alle altre piccole imprese una sorta di kit per l'Industry 4.0, chiavi in mano, con un sistema software, i visori negli occhiali, i tablet e tutto quanto, per cui la piccola impresa prende questo sistema e lo avvia e fa i primi passi per l'Industry 4.0. La cosa per noi è interessantissima sotto vari punti di vista. Lo spiegheremo meglio con una scheda, ma ci dica in due parole che cos'è questo Smart Fab e come è nata l'idea. Sì, Smart Fab per noi è appunto noi l'abbiamo chiamato l'access point to Industry 4.0, perché molto spesso si pensa che Industry 4.0 sia qualcosa solo per le aziende grandi strutturate. Nel nostro caso abbiamo visto sulla nostra pelle, perché comunque l'abbiamo, prima di offrirlo a terzi, l'abbiamo implementato nei nostri stabilimenti, abbiamo visto che Industry 4.0 è qualcosa di raggiungibile anche per le piccole aziende, le medie aziende. Quindi diciamo il messaggio che vogliamo lanciare è proprio quello che si può partire a piccoli passi e iniziare questo percorso di digitalizzazione anche nelle aziende delle nostre dimensioni. Per capire bene in che cosa consiste questa soluzione, sentite un attimo qua. Rold Smart Fab è un pacchetto chiave in mano per portare gradualmente, ma con efficacia immediata, le tecnologie 4.0 nelle piccole e medie aziende. L'idea, insomma, è quella di un Industry 4.0 plug and play, facilmente utilizzabile da operai specializzati, tecnici e manager, grazie a strumenti di uso comune come smartphone, tablet, orologi intelligenti o smartwatch, monitor ad alta risoluzione. L'unico strumento non di uso comune che fa parte del kit Rold Smart Fab sono i visori per la realtà virtuale, che però non sempre sono necessari. L'idea di base è che Industry 4.0 possa essere accessibile gradualmente, progressivamente e con investimenti alla portata di tutti. La caratteristica distintiva di Rold Smart Fab è la semplicità, il connubio tra tecnologia e usabilità. L'Industry 4.0 diventa a portata di mano grazie ai dispositivi ai quali tutti oggi sono abituati. Rold SmartFab, frutto della collaborazione fra Rold e Samsung, è la prima tecnologia di questo genere disponibile in Italia. Rold SmartFab serve a monitorare, analizzare e gestire dati e informazioni provenienti dagli impianti di produzione e dai sottosistemi aziendali, utilizzando device e piattaforme aperte, nonché strumenti standard di facile sostituzione in caso di guasto. Il processo produttivo all'interno della fabbrica viene reso tracciabile e così le informazioni arrivano in tempo reale alle persone chiave che con i semplici device di cui abbiamo appena parlato possono leggere lo stato dei sistemi in tempo reale. Inoltre, le persone chiave possono anche elaborare una previsione sul futuro dello stato di funzionamento. Così è possibile intervenire senza interrompere la produzione o modulando il ritmo dei processi. Il risultato dovrebbe essere il miglioramento dell'efficienza delle linee di produzione, sia per quanto riguarda il rendimento delle macchine, sia per la qualità dei lotti. Rieccoci in linea con Laura Rocchitelli della Rold, che ci stava spiegando questa soluzione Smart Fab, che per quanto ne sappiamo è la prima soluzione in assoluto per l'Industry 4.0, chiavi in mano anche per le piccole imprese. Voi la state testando in alcuni vostri stabilimenti per poi avere l'obiettivo di venderla fuori, è così? Certo. L'abbiamo innanzitutto testata su di noi, perché chiaramente per vendere un prodotto dobbiamo crederci, e ci crediamo talmente tanto appunto che ne vogliamo fare una nostra linea di business. Abbiamo visto i vantaggi all'interno dei nostri stabilimenti, dei nostri impianti produttivi, perché per esempio, giusto per spiegare, gli operatori hanno degli smartwatch sui quali ricevono sistematicamente gli errori, le segnalazioni dell'impianto, sanno esattamente in che momento, nel momento preciso in cui avviene un fermo, un problema su una stazione dell'impianto, e quindi possono intervenire in modo immediato. Oltretutto, lo stesso messaggio può arrivare al capo reparto fino al manager, all'operation, in modo tale che chiunque può in ogni momento capire se il problema è stato preso in carico, è stato risolto e quindi l'impianto ha ripreso a funzionare. L'abbiamo già detto in parte nella scheda. Quello che volevo capire è come avete fatto voi ad arrivare a una partnership con un colosso come Samsung. Dunque, noi ci siamo rivolti a Samsung, abbiamo avuto un incontro un paio d'anni fa presso la loro sede, che allora era ancora a Cernusco, e ci siamo presentati come azienda innovativa che aveva comunque al suo interno delle competenze tecnologiche di un certo livello. E dopo circa un anno Samsung stessa ci ha ricontattato dicendo che avevano appunto effettuato una selezione tra varie aziende che avevano incontrato e che ci avevano individuato come loro potenziale partner. Dopo un anno da questo momento, un anno chiaramente di lavoro e di collaborazione stretta con Samsung, siamo arrivati a stringere questo accordo, per cui noi svilupperemo la parte diciamo di software che permette la rilevazione dei dati direttamente dagli impianti, e loro tutta la parte di hardware, quindi i loro display, i loro smartwatch, i tablet, le lavagne interattive. Per loro è importante, perché gli può permettere di vendere l'hardware che loro fanno anche alle fabbriche. Samsung in realtà nell'area fabbrica, nell'area manufacturing, non è ancora presentissima, no? Infatti io credo che ciò che sia piaciuto a loro e che abbia fatto capire loro che noi possiamo essere il partner corretto è proprio che siamo un'azienda manifatturiera, perché molto spesso, spero di non dire niente di scomodo, ma a volte le società magari di software o di consulenza non vivono costantemente, quotidianamente la fabbrica, e quindi magari certe problematiche risultano loro lontane. Ma io vado anche più in là, certe problematiche non le vogliono capire, perché il loro interesse è vendere il software, vendere la consulenza e vendere il più possibile. Quindi c'è il rischio di una forzatura verso la vendita, che poi travalichi quelli che sono invece i reali interessi dell'azienda manifatturiera. Tra l'altro, l'azienda manifatturiera deve andare per gradi, certo. Non è che uno può fare il cambiamento disruptive che predicano gli americani. Se fa il cambiamento disruptive ha carte 48. giustamente i tedeschi ti dicono che l'Industry 4.0 deve essere implementata in una decina di anni e che si può cominciare con poco. Questo deve essere molto chiaro anche agli imprenditori che ci ascoltano, perché altrimenti sembrano o cose talmente potenti e talmente disruptive da sembrare infattibili, oppure cose lunari. Invece sono abbordabili, sono fattibili, aumentano le possibilità di competere e di vendere i propri prodotti e non devono spaventare. Allo stesso tempo sono cose obbligatorie. La manifattura o sarà Industry 4.0 o non sarà, non ci sono altre strade. Penso che lei sia d'accordo. Assolutamente. Io tra l'altro lo vedo anche un modo per valorizzare ciò che ci ha preceduto, perché chiaramente l'industria del nostro passato è quella che ha creato la ricchezza del paese. Sulla quale del siamo paese. Seduti ora. Ci dobbiamo però interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Fabbrica 2.4. Le formiche non sono fatte per servire le cavallette. Ho visto queste formiche fare grandi cose. Anno dopo anno riescono in qualche modo a raccogliere cibo per se stesse e per voi. Rieccoci in linea, stavamo parlando di Rold Smart Fab, questa soluzione sviluppata da un'azienda manifatturiera che a Nerviano, in quel di Milano, fa tutt'altro, cioè componentistica per gli elettrodomestici. Ecco, questa soluzione che dovrebbe consentire una sorta di primo accesso all'Industry 4.0 in formula chiave in mano, quindi competere coi grandi su tematiche grandi. Ecco perché abbiamo insistito con Bugs Life, che vi ho fatto sentire anche in questa ripresa di collegamento, perché a noi piace pensare che le formiche italiane possano competere con le cavallette degli altri paesi, oppure allearsi con le cavallette, oppure allearsi fra formiche, ma comunque resistere, magari le formiche con più idee essere più competitive. È giusto, signora Rocchitelli? È giusto. Leggevo qualche tempo fa, non so chi ha detto, che adesso non è più il pesce grande che mangia quello piccolo, ma è quello più veloce che mangia. Infatti, la velocità. Tra l'altro, domani faremo una trasmissione con Stefano Venturi, che ci parlerà proprio della velocità come elemento essenziale per competere all'epoca dell'Industry 4.0. Però per chi si fosse messo in ascolto adesso e non facesse parte del popolo che segue questa trasmissione, popolo che ringrazio, che è sempre più numeroso, è necessario un brevissimo ripassino per ricordarsi che cos'è l'Industry 4.0. Sentite qua. Industry 4.0 significa in buona sostanza la totale digitalizzazione della produzione. Su ogni componente manifatturiero ci sarà o c'è già un sensore che permetterà al componente stesso di dialogare con gli altri componenti prima, durante e dopo il momento della fabbricazione. Il dialogo, cioè la trasmissione di informazioni, è anche con la fabbrica, i clienti, gli utenti, i trasportatori, gli erogatori di servizi e i manutentori, perfino, all'occorrenza, con il sistema bancario. Tutto questo dialogare genera una massa enorme di informazioni, i big data, che software appositi monitorano, filtrano e valutano, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione, utilizzo, vendita e controllo remoto del prodotto. Per gestire questi dati, ogni azienda manifatturiera dovrà trasformarsi a suo modo in una software house. Saranno ridotte al minimo scorte e magazzini, e soprattutto i relativi costi. I componenti arriveranno just in time, solo quando saranno necessari per assemblare il prodotto, e potranno essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. Qualcuno ha anche parlato di prodotti che dicono alle macchine come fabbricarli. Just in time e personalizzazione di massa saranno la norma. E ci sarà una generale interconnessione. L'economia si trasformerà in un unico sistema produttivo integrato. Ci sarà un ambiente di produzione molto più flessibile, con minore controllo centrale e più intelligenza diffusa. Tutto questo fa capire come Industry 4.0 rappresenti una rivoluzione che in tutto il mondo cambierà profondamente il modo di produrre, il funzionamento delle aziende, la loro ragion d'essere, il lavoro degli uomini e l'intero scenario competitivo. Ma i cambiamenti non si fermeranno qui. Muteranno anche, e di molto, società, cultura, politica, urbanistica. Industry 4.0, infatti, viaggia di pari passo con un'interconnessione generalizzata del mondo. Tale interconnessione selezionerà di molto gli attori economici, ma consentirà anche ai più bravi di inserirsi con maggiore facilità e minori barriere economiche nelle dinamiche dell'economia mondiale. Il maggior investimento richiesto all'imprenditore consisterà nell'intelligenza dei prodotti, del business model, dei servizi. Gli investimenti economici verranno dopo e rappresenteranno una componente in qualche modo secondaria rispetto a tutto il resto. Ciò permetterà anche ad alcune piccole e medie imprese di farsi valere e di crescere. L'Industry 4.0, insomma, rappresenta anche una formidabile opportunità per le piccole imprese italiane. Le formiche più brave e veloci potranno, assai più di oggi, produrre e vendere con successo i loro prodotti in giro per il mondo. Industry 4.0, avete appena sentito la scheda, io vorrei che entrasse bene in testa agli ascoltatori di questa trasmissione, anche perché se gli ascoltatori sono imprenditori, manager o uomini d'azienda, se non lo capiscono possono tranquillamente chiudere bottega o andare a dar da mangiare ai piccioni, ai giardinetti, quindi nel loro interesse. Parliamo però di Rold, dedichiamogli questi ultimi tre minuti. Voi fate soprattutto blocco porte per lavatrici, una cosa molto tradizionale che però riuscite a fare anche in Italia con 40 milioni di euro di fatturato, un 13% di EBITDA. Però, signora Rocchitelli, vi state anche espandendo. Adesso i LED, poi altre cose, poi questi sistemi di software e di tecnologia. Insomma, che volete fare? Ma noi crediamo molto nella, come dire, nella contaminazione delle competenze. Crediamo che sia un fattore vincente per il futuro, perché è vero, è giusto essere specializzati, ma appunto in un mondo che sta cambiando e che si sta digitalizzando è necessario anche dotarsi di nuove competenze. Questo permette anche sia di essere più attrattivi, mi viene da dire, nei confronti dei giovani, perché continuiamo a lamentarci che i giovani talenti vanno all'estero, però noi imprenditori dobbiamo anche avere il coraggio di essere attrattivi per loro, perché è chiaro che se noi rimaniamo su binari tradizionali probabilmente i giovani più brillanti non vengono, ecco, non vengono quindi incentivati. State diversificando, esatto. Interruttori rotativi sono un prodotto vostro classico tradizionale, sì. E invece fate i LED da mettere nelle fabbriche. Sì, abbiamo implementato una linea di produzione di LED, di sistemi di illuminazione, tra l'altro anche che contengono anche una piattaforma di efficientamento energetico, quindi abbiamo voluto aggiungere qualcosa all'illuminazione, è illuminazione gestita. E il nostro target sono appunto gli stabilimenti, le palestre, i luoghi di una certa dimensione, quindi non le case. E questi magari sono luoghi, insomma, i clienti sono gli stessi che vi comprano altre cose, quindi cercate di vendere alla vostra base clienti storica sempre più prodotti e possibilmente a maggior valore aggiunto. Certo, già adesso anche per Smart Fab abbiamo già ricevuto delle manifestazioni di interesse anche dai nostri clienti storici. Per questo per noi è un grandissimo valore, perché siamo sempre stati percepiti fino a qualche anno fa come produttori di componentistica. Ora siamo percepiti come un'azienda tecnologica a 360 gradi, che quindi può, chiaramente con l'affidabilità che ci siamo costruiti nel corso di decenni, può offrire anche altri prodotti e servizi. Perfetto, purtroppo il tempo è tiranno, salutiamo Laura Rocchitelli. Grazie. Saluto gli ascoltatori, ci sentiamo domani alle ore 13:10.